Gorgo, l'orco dorato. Come faccio a raggiungere la città degli orchi neri? Chiese Gorgo. Al di là delle montagne purpuree nessuno conosce la strada, brontolò Borgo. Io verrò con te, disse il padre. Insieme riusciremo a trovarla. Borgo intanto era tormentato da un dilemma. Si chiedeva con rabbia. Li aiuterò o non li aiuterò? Sì o no? E va bene, va bene, va bene. Glielo dirò. Un modo c'è. Venite a casa mia. La sua casa aveva la strana forma di una enorme testa con le corna. Dentro, candele rosse e verdi illuminavano pezzi di cristallo, bottiglie di drago sott'aceto, scheletri, mostri impagliati, barattoli pieni di denti e di occhi e animali inquieti nelle gabbie. Dovrei fare un po' d'ordine, borbottava Borgo. Queste spade hanno la lama indurita dal sangue di un drago rosso. E questo? Borgo prese in mano una gabbia. Dentro c'era una piccola bestiola che si lamentava e camminava avanti e indietro. Aveva 6 piedi e al posto delle braccia dei tentacoli con delle ventose alle estremità. La testa aveva un occhio solo e un pungiglione acuminato. Oh! Esclamò il padre di Gorgo. Ma Gorgo invece provò pena per quel povero essere nella gabbietta. Indovinate cos'è? Borbottò Borgo. Non è uno di quegli slurme di cui mi parlavi? Chiese Gorgo. È un baby slurme che ho rubato alla madre quando gli slurme ci hanno attaccato. Noi non conosciamo la strada per attraversare le montagne, ma lui sì. Correrà dritto a casa di sua madre. Borgo cucinò uno stufato di orco rosso dallo strano odore, da cui si sprigionavano fiammelle colorate. Mangiatelo, vi darà forza per l'impresa. Dopodiché si misero tutti in cammino. Il pomeriggio era ormai avanzato. Quando raggiunsero il sentiero ripido e franoso che portava alle montagne purpuree, il cielo era sgombro da nubi. In quel luogo vivevano solo draghi blu e uccelli a 3 teste. Dopo 3 giorni di cammino, arrivarono a quella che sembrava una piatta pianura blu. In realtà era un lago di melassa blu, nel quale nuotavano strane creature, simili a pesci. Sentieri nascosti attraversavano il lago. Lasciamo che lo slurme trovi la strada, disse Borgo aprendo la gabbia. Durante il viaggio, Gorgo aveva cercato di rendersi amico lo slurm, ma era stato punto e morso. Ma quando la gabbia fu aperta, lo slurm dimostrò chiaramente di voler star vicino a lui. Borgo gli diede un calcio. Muoviti, slurm, corri dalla mamma! Lo slurm non si mosse e Borgo esclamò. Non era abbastanza forte, eh? Prendi questo allora! Basta! Gridò Gorgo e sollevando da terra lo slurm gli sussurrò qualche parola gentile. Poi lo rimise per terra. L'animaletto rimase fermo un attimo e poi si mise a correre verso la distesa blu. Gorgo, Borgo e il padre di Gorgo lo seguirono lungo sentieri a zigzag, immersi in una fitta nebbia nera. Un po' alla volta, la distesa di melassa blu si tramutò in scintillante roccia nera. Erano in viaggio già da 7 giorni, quando udirono in lontananza dei ruggiti e dei muggiti. Si guardarono l'un l'altro, pieni di paura. E più camminavano, più forte diventava l'orribile suono. Improvvisamente la nebbia si diradò. Davanti a loro apparve una grande collina in mezzo a un fiume rosso ribollente in cui si muovevano dei mostri che sputavano vapore e fiamme rosse e gialle e che ruggivano e mugghiavano l'uno contro l'altro. Al di là del fiume, su una collina di rocce aguzze e scintillanti, sorgeva una città fatta di alte torri nere, tutte contorte e comunicanti fra loro per mezzo di centinaia di ponti, fra i quali galleggiavano degli strani palloni rossi. Le più alte erano 3 torri a spirale, la cui cima si perdeva fra minacciose nuvole nere. Gli orchi rimasero senza parole per lo stupore. Non si vedeva l'ingresso della città. Non c'erano né ponti né sentieri, solo il fiume di fiamme. Finalmente il padre di Gorgo parlò. Io credo che gli orchi neri entrino nella città volando. Può darsi, ma poiché noi non possiamo, sarà meglio che torniamo a casa, brontolò Gorgo. Gorgo si chinò e accarezzò il pungiglione dello slurme. Questi gli prese la mano con uno dei tentacoli e lo condusse fino all'estremità della collina. Qui abbandonò la mano di Gorgo e saltò nel vuoto. Oh, si è ucciso! Gridò il padre di Gorgo. Poi anche Gorgo saltò. Il padre corse terrorizzato verso il baratro. Sotto di lui lo slurme e Gorgo stavano galleggiando sopra la schiuma fiammeggiante che formava gigantesche onde. Sono vivi! Non stanno bruciando! Non sono affogati! Non può essere, borbottò Gorgo. Quindi anche loro due saltarono. Mostri vi catturerò! Gridava Gorgo. In quell'istante un mostro dalle grosse labbra spalancò la bocca gigantesca e inghiottì tutti e tre. Se li è inghiottiti! Urlò Gorgo sbigottito. Era solo, infelice e spaventato. Devo saltare? Non devo saltare? Sì? No? Va bene, va bene, va bene! Gorgo saltò. L'atterraggio fra le fiamme e il vapore rossastro fu come cadere su un soffice e tiepido letto di piume dopo una giornata faticosa. Poi il vapore rosso, simile a una cascata, finì nella bocca del mostro mugghiante. Il mostro, tenendo la testa alta sopra le fiamme, buttò fuori dalla bocca una nuvola di bolle rosse in direzione della città. In tre di esse c'erano Gorgo, suo padre e lo slurme. Svanirono fra le torri scure. Strano modo di viaggiare, pensò Gorgo, e questa volta invece di brontolare, sorrise. Quando la bestia era piena, sputava fuori bolle e vapore. E anche Gorgo si ritrovò in una bolla che si librò nell'aria verso la città e verso i tre fedeli amici.